Tu sei l'unica stella dipinta sola. Dimentichi ancora che è troppo speciale lasciarti nel mio cuore. È un sogno fantastico. Mi sveglio e ti trovo lì, sospesa nel cielo. Sei l'unica stella dipinta da sola. Dimentichi ancora che è troppo speciale lasciarti nel mio cuore una notte sincera. Lo vedi da sola, continuo a sognare. È un posto fantastico e il tempo si ferma qui, anche quando sei magica, così romantica, forse siamo.